una tenerezza infinita in quella ruota storta, nelle forcelle piegate e nel loro avere perso di senso, nel loro non servire più. Per un attimo ho provato pietà per quella moto, la stessa pietà che si prova per un essere umano in difficoltà o un animale che soffre senza poter urlare il suo dolore. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:02. Anzi, quasi 3. Questa è Radio 24. Oggi è mercoledì 18 maggio del 2011. Io sono Matteo Caccia e sono qui. La prima volta che ho dato un nome ad un oggetto era un canotto. Il signore del negozio dove mi aveva portato mio padre all'isola d'Elba mi disse che anche se era solo un canotto, si trattava sempre di una barca e quindi come tale le andava dato un nome. Le barche forse sono tra gli oggetti, probabilmente sono la categoria di oggetti a cui vengono dati i nomi senza vergognarsi. Perché è scritto così? Perché sì, alle barche si deve dare un nome. Il mio canotto lo chiamai Matteo I perché da bambino difettavo di fantasia. E il secondo canotto lo chiamai Matteo II. Poi fortunatamente mio padre smise di comprarmene, altrimenti sarebbe stato un delirio. Essendo una barca, andavano chiamate al femminile. Sapete che tutte le barche hanno nomi femminili. Quindi era la Matteo I, la Matteo II. Ma questo lo imparai col tempo. Io però tendo a non affezionarmi troppo agli oggetti, questo ormai lo sapete, e quindi tendo a non dare nomi agli oggetti, tendo a non parlare agli oggetti, insomma a fare quelle cose che però mi capita di sentire che le persone facciano. Ecco, ieri però mi è capitato di umanizzare una cosa che di umano aveva veramente poco, e a breve vi racconterò questa storia. Perché immaginare uno spirito umano dentro a un pezzo di plastica, a un pezzo di metallo, a un pezzo di legno, un po' è una stupidaggine. E un po' però ci fa sentire meno soli. Ci dà quella possibilità di interagire con una cosa che in realtà è morta, o almeno sembra così. Io ho un amico che non solo dà un nome a tutte le sue auto, tutte quelle che ha posseduto prima e quelle che possiede adesso, perché ne possiede più di una, fortunato. No, è che proprio glielo attacca con un adesivo sulla fiancata, nella parte in fondo alla macchina, dietro alla portiera posteriore. Io l'ho sempre preso molto in giro, ovviamente, per questa cosa, però poi ho scoperto che un sacco di persone intorno a me danno nomi alle cose. Alle auto, ovviamente, ma anche agli elettrodomestici, alle piante, ai fiori, ai mobili, agli attrezzi da lavoro, a quelli sportivi, agli strumenti musicali, tutto quello che viene usato con frequenza e a cui alcune persone attribuiscono doti umane. Io continuo a pensare che non sia una cosa del tutto sana, lo ammetto, però mi diverte molto sentirla raccontare. Quindi se qualcuno di voi dà nomi alle cose, parla agli oggetti, se li considera così umani da avere un carattere, una dignità, perfino un'anima, e soprattutto ha il coraggio di raccontarmela, io sono qui. E il numero è quello di sempre, è 800240024 per chiamare in diretta gratis, oppure 349-238-6666 per mandare un sms in base alla cifra che avete deciso con la vostra compagnia telefonica. Lo ricordiamo perché il numero è verde. Questo gioco degli oggetti, dei nomi agli oggetti, è più che un gioco è quasi una patologia, oserei dire, al punto che le persone che mi hanno scritto sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui, andate lì, cliccate su mi piace e in breve batteremo ogni record degli iscritti. Bonini, è inutile che fai così, ci sarà un record da battere. 6.000 abbiamo deciso, il nostro record 6.000 alla pagina del profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Allora Igor dà il suo nome, dà un nome, perdonatemi, al cappello, al mio cappello alpino. Notare le maiuscole come fossero nome e cognome. Ah, cappello alpino. Credo che sia un alpino, un ex alpino, ma alpini si rimane sempre. Simone, la tazzina del caffè presa a New York, la tratto come fosse mia figlia. Stefano, la mia collezione di vini acquistati negli anni. Davide, i miei rossignol, quindi qua si parla di sci. Monica, tre peluche. Vabbè, qui poi entriamo nella patologia dei peluche. Non li ho messi tutti i messaggi che sono arrivati sui peluche perché un po' mi imbarazzava a leggerli, però ce ne sono a strafottere. Tre peluche che ho da quando ero piccola: Antonello, Giorgio e Carotino. Ora, perdonami Monica, ma se hai chiamato Antonello e Giorgio, che mi sembra abbia un senso dargli un nome da uomo, insomma, perché il terzo lo devi chiamare Carotino? Cosa ti ha fatto di male? Un po' come i miei amici che hanno chiamato loro figlio Olmo. Tutti quanti ci abbiamo messo anni a cercare di convincerli che era stato sbagliato, e loro no. È un nome bellissimo, Olmo. Adesso è un nome bellissimo, però ti assicuro che quando ci hanno detto dovremmo chiamarlo Olmo, noi ci siamo immaginati chiaramente nella nostra fantasia una grande pianta. Pascal, il mio guantone da baseball. Valerio, mia madre parla con la sua macchina, la coccola come una figlia, gli ha dato pure un nome che è Cosuccia. Non so, però un po' imbarazzo io, devo dirvi la verità. Manuela, trattarlo come una persona o un parente no, ma il nostro Roomba, l'aspirapolvere automatico, si chiama Philip. Gli parliamo e lo ringraziamo per il lavoro sporco che fa al posto nostro. Barbara, un carillon di quando ero molto piccola, ci parlo da allora, sa tutto di me. Irena, ciao, ho due peluche da quando avevo 10 anni, appunto. Adesso ne ho 34. Tu pensa, quindi sono passati 24 anni, Irena, nella tua vita. Si chiama Ami e lo tratto come un essere umano. Lo lavo a mano perché in lavatrice si va male. 800240024 349 238 6666. Tra l'altro abbiamo scoperto che in realtà anche Tiziano Bonini, senza volerlo, anche se snobbiamo questa cosa, diamo i nomi agli oggetti. Nel nostro caso si tratta di un passato di verdure che si acquista al supermercato molto facilmente. Ci siamo incontrati prima di pranzo e ci siamo detti: ma sai, ieri ho mangiato un passato di verdure, ma anch'io, ma quale? Quello nella tazzeruola, quello da due. Abbiamo scoperto di essere due stereotipi viventi ingabbiati nelle logiche del marketing. Grazie Bonini, però almeno questo ci rende un pochettino più vicini. 800240024. Ce n'era un altro. Beh, scusatemi, questo non so come si chiama, perché il suo profilo Facebook è I Segreti della Pesca e lui ovviamente dà i nomi alle sue canne da pesca, però non ci dice che cosa, che nomi, perdonatemi. Alice, avevamo una 126 verde, la chiamavamo Carolina. Ce n'era un altro però, aspetta, stai lì, eh. Iole ha dato un nome e parla alla sua piastra per i capelli. Francesca, assolutamente la mia tavola da surf, rosa con i fiori e sfondo luccicante di brillanti dorati. Potrei uccidere per lei. Diciamo che è il mio quarto figlio. Ed è questa, diciamo, di tutto il messaggio, la cosa che più mi stupisce: il fatto che questa donna abbia tre figli. Abbia tre figli e nonostante tutto vada a fare surf. Voglio dire, ci sono persone in questa redazione, mi viene in mente Alessandro Marco Tulli, ad esempio, che ha tre figli, ma dove troverebbe il tempo per andare in tavola da surf? Lui mai. Magari qualcun altro. 800240024. La questione che riguarda l'umanizzazione delle cose e del dare i nomi agli oggetti nasce esattamente da questa storia qua. C'era un meccanico al mio paese che quando andavi lì con il motorino o la bicicletta rotta, che tu magari avevi cercato di aggiustare facendo peggio, ti diceva sempre questa frase: questi lavori bisogna farli a uno che è capace. Ora, la forma è scorretta, però il significato è molto chiaro. Se non sai fare una cosa, non farla. Lascia fare a qualcuno che sia capace di farla. Questa è la cosa che ho pensato la prima volta che ho visto la mia moto nuova. Appena ci sono salito sopra, mi sono domandato se non ci volesse una preparazione particolare per guidarla, oppure se non fossero passati troppi anni da quando andavo in giro nei campi del mio paese con un TT600 bianco e rosso. E questa è stata la cosa che ho pensato ieri, quando mi sono ritrovato per terra, in strada, in una zona Porta Vittoria a Milano, con la moto sotto le ruote della macchina che mi aveva sbattuto per terra. Fa male l'asfalto. Uno quando ci cammina sopra non se ne rende conto, ma caderci anche solo da una sella alta 70 cm, praticamente da fermo, ti riserva un'accoglienza poco carina. Sono qui e sto bene, quindi non c'è da preoccuparsi, però la moto è messa molto male. Il tutto per un incidente stupido e della dinamica abbastanza ridicola. Dunque io mi stavo avvicinando al semaforo, tenendo la parte destra della strada, che già in teoria credo non si possa fare. Quando sono arrivato la luce è diventata verde, quindi ho scalato dalla terza alla seconda e sono ripartito. Solo che il tizio fermo al semaforo ha deciso che doveva girare a destra senza mettere la freccia però. Io ho frenato, ma gli sono finito addosso. E lui con la ruota posteriore è finito sopra la mia moto, mentre io ero già praticamente in piedi. Avete presente quei momenti in cui non sai se iniziare a insultare lui e tutto il mondo intorno a lui, oppure startene malinconico ad osservare quello che è successo, che ormai non è più risolvibile? Ecco, ero in piedi in mezzo alla strada con la gente che si fermava e che si avvicinava per chiedermi se stavo bene. Il tizio dell'auto è sceso ed era disperato più di me. Era un signore che sembrava più anziano della sua età, era pallidissimo. Ecco, lì ho avuto quell'attimo di esitazione e ho pensato: adesso gli tiro un cartone. Poi mi sono accorto che poteva essere mio padre e che non avrei mai tirato un pugno a uno dell'età di mio padre e probabilmente non avrei mai tirato un pugno a nessuno. E che forse quello un po' era un peccato. Cioè che se avessi dato qualche pugno in più e mi fossi fatto qualche remore in meno nella vita, forse sarebbe stato più facile. O forse no. Nel frattempo una ragazza in motorino si era fermata e mi ha detto che lei aveva visto tutto nel caso mi fosse servito. Che a lei l'avevano già fregata due volte e che era disposta a farmi da testimone. Io ho tranquillizzato tutti, ho detto di lasciarmi in pace mentre qualcuno chiamava i vigili urbani. Poi mi sono girato e ho visto la moto. Era sdraiata per terra, il motore era scoperto. A vederlo da sotto sembrava nudo, impotente. C'era una chiazza di qualche liquido strano per terra, olio, benzina, forse acqua. La ruota anteriore era concava. Disegnava una specie di U, mentre le forcelle erano completamente storte. Ecco, c'era una tenerezza infinita in quella ruota storta, nelle forcelle piegate, nel loro avere perso di senso, nel loro non servire più. E per un attimo ho provato pietà per quella moto. La stessa pietà che si prova per un essere umano in difficoltà o un animale che soffre, senza poter urlare il suo dolore. È stato in quel momento che ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono girato e un furgone, per evitare l'assembramento in mezzo all'incrocio, era finito contro il semaforo. Il semaforo era a terra, con i fili che spuntavano dal marciapiede. E lì per la seconda volta nel giro di pochi secondi ho provato tenerezza per due oggetti inanimati. Prima la moto e adesso quel semaforo abbattuto. E lì mi è venuto un flash, un ricordo vividissimo di quando avevo visto un incidente simile molti anni fa. Un incidente in cui un semaforo aveva fatto la stessa fine. Sono fermo sul marciapiede ad un semaforo che sembra non avere più voglia di diventare verde. Chissà se anche i semafori hanno delle giornate no, in cui non hanno voglia di fare niente. E allora magari si spengono e tutti pensano che si siano rotti. Invece no, è solo che si sono stufati di fare sempre la stessa cosa. Perché sai che palle essere verdi, gialli, rossi per milioni di volte? Un po' come i tergicristalli o le porte automatiche. Sì che lo so che sono cose meccaniche, però chi lo sa... Magari anche loro hanno un'anima, no? Cioè, in fondo sono stati costruiti dagli uomini e così come una scultura o un quadro parlano, anche se non hanno una voce, perché non lo dovrebbero fare i semafori? Che poi, se ci pensi, fanno veramente una vitaccia, eh? Cioè, sono sempre lì, al gelo dell'inverno e alla canicola dell'estate. Fanno un lavoro di altissima responsabilità, ma mai nessuno che gli dica grazie. Nel frattempo il rosso si è trasformato in verde, io sto per attraversare. Lo guardo e gli sorrido. Gli direi quasi grazie se non avessi paura di sembrare uno di quei matti che parlano da soli. Poi mi dico che non me ne frega niente, quindi lo saluto come si saluta il portinaio quando esci la mattina per andare al lavoro. Accanto a me c'è una signora che scalpita, è la terza volta che cerca di attraversare, ma poi torna indietro. Ma io dico, ma perché non provi anche tu a stare qui? A goderti questo rosso? Perché non devi rispettare questa semplice ma fondamentale regola che col verde si passa e col rosso si aspetta? Niente, lei guarda a destra, guarda a sinistra e si butta in mezzo alla strada manco dovesse andare chissà dove. Il fatto è che se delle regole hanno messo è perché quelle regole vanno rispettate. E infatti se attraversi col rosso qualcosa rischia di succedere. Non passa neanche un secondo che un autobus che è appena ripartito dalla fermata si trova la signora che scalpitava proprio in mezzo alla strada, frena, sterza e finisce contro il semaforo. Contro il mio amico semaforo, che adesso è per terra, è inerme. Le luci si sono spente e dalla base spunta un fascio di fili che si immergono nell'asfalto. Io mi ci avvicino, poi con calma mi inginocchio accanto a lui. È morto. Povero semaforo. Non funziona più. Guardo le persone che stavano sull'autobus correre tutti verso la deficiente che ora è dall'altra parte della strada. Eppure nessuno si occupa del semaforo. E dire che lui non c'entrava niente, lui faceva solo il suo lavoro. Da rosso diventava verde, giallo e poi di nuovo rosso. Mi viene quasi voglia di portarmelo a casa, di fargli un funerale. Poi però mi dico che in fondo ha avuto la morte migliore che ci possa essere. Non si è accorto di nulla. Quindi mi alzo, lo saluto e continuo a camminare. Left dangling just a little shame. Stanotte vi porterete a letto il vostro fucile e darete al vostro fucile un nome di ragazza. Siete sposati al fucile, quel coso fatto di legno e di ferro, e rimarrete fedeli soltanto a lui. Faccio il rappresentante e viaggio su una Fiat Multipla che chiamo la Marchionne, al femminile, 300 km al giorno, e la mia socia. Povera, forse la Multipla, la seconda auto più brutta della storia, dopo la Duna ovviamente, però sempre made in Italy. Il mio iPad lo chiamo Pogno, aspettate che risalgo perché qua ce n'è. Allora Stefano, il congelatore a pozzetto, che è quello che apri dall'alto, immagino. A casa mia si chiama Renato. Tutti i mezzi a motore oggi e pedali prima hanno sempre avuto un nome, però non li dice. La mia Graziella, dice Simone, con cui andavo alle medie, la Kovacevic, in onore del mio calciatore preferito. Chi era? Darko Kovacevic, Lazio, Juventus, ma prima Lazio però mi pare. Dovrei chiedere al mio idolo Gigi Garanzini, che tra l'altro oggi ringrazio perché gli sono arrivati altri messaggi anche oggi, cioè solo oggi, per quello che gli avevo raccontato ieri, mettendomi molto in imbarazzo. E poi secondo me è un po' anche lui. Il conto terzista che veniva a trebbiarmi il frumento. Aspetta un attimo, che qua già ci sono tipo tre elementi in quattro parole. Allora, Gaetano di Vicenza evidentemente è un agricoltore, o quantomeno ha del frumento. Gli veniva trebbiato non da lui, ma da un conto terzista, che immagino sia una persona che fa lavoro per te, giusto? Tipo un agricoltore a cui paghi, che lo paghi in frumento probabilmente. Comunque il conto terzista che veniva a trebbiarmi il frumento chiamava la vecchia chiamava la sua metitrebbia, che era una Laverda modello M120, la chiamava la vecchia. Ariella, la mia stufa pellet si chiama Sofia, la ringrazio per il calore che mi dà. Daniele, la R4 di mia moglie si chiama Tony, si chiamava Pluto, cosa vuol dire? La R4 di mia moglie. Ah, Tony è il nome della moglie. Beh, che moglie, che nome ha tua moglie, Daniele? Margherita lo scooter, Claretta la bicicletta. Ho dato il mio nome a un albero, è un nocciolo, si chiama Gustavo, come la mucca che ha fornito la prima concimazione. Vabbè, ma scusami, ma una mucca, esistono mucche maschio? No. Allora perché la chiami Gustavo? Niente, vabbè, qui ormai veramente ci stiamo perdendo. Oggi mi è arrivato un messaggio che è un messaggio, uno dei messaggi tipo che mi sono arrivati, che parlano di nomi dati alle macchine. È Isabella, pronto Isabella? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? E io abbastanza bene. Senti, tu vivi in Svizzera? Sì, io vivo a Lugano. Perché vivo e lavoro qua. Perché vivi a Lugano? Perché mi sono trasferita qui 15 anni fa quando ho iniziato l'università. Poi ho trovato lavoro in università e quindi alla fine sono qui. Semplicemente. E come si vive a Lugano? Si sentono uccellini alle tue spalle? Si immaginano sono banche? Sono nel campus dell'università. Sei nel campus? C'è un campus dell'università a Lugano? Grandissimo. Grandissimo. Cioè nell'università italiana ci sarebbe un chiostro, male che vada. Invece lì c'è un campus. Certo. Che cosa fai all'università, Isabella? Sono una ricercatrice nell'ambito delle tecnologie digitali, computer, internet. Attenzione perché Bonini si sta eccitando già, quando si parla di ricerche digitali. Scusami, dimmi l'ultima cosa che hai cercato. So che è una banalità detta così, lo so Isabella, perdonami, però dimmi una ricerca che hai fatto. Sui luoghi d'accesso a internet e alle tecnologie in Mozambico. Wow. Senti, e quanto si guadagna a fare la ricercatrice digitale in quel di Lugano? Più che in Italia, si vive, si ha un appartamento, si fanno le vacanze, vabbè, si compra i vestiti. Oltre i 2.000 euro? Sì. Meno dei 3.000 però? 2.000-3.000 euro da dottoranda. Scusami, 3.000 da dottoranda? 2.000 da dottoranda e poi in su. E poi in su. Quindi non torneresti mai tu? Cioè, credo che rimani a Lugano. Beh, ovvio, no, non tornerei, non farei la ricercatrice in Italia. Ma chi è che fa ricercatore in Italia, Isabella Beraldo? Di dove sei però tu originaria? Di Milano. Di Milano? Anzi, di Cernusco sul Naviglio. Ma scusa, ma fai la frontaliera o vivi proprio a Lugano? No, vivo qui. Vivi a Lugano. Va bene, e nonostante tutto, nonostante Isabella sia una ragazza che lavora all'università, che fa ricercatrice, una ragazza impegnata, ha dato il nome alla sua automobile, che è? Che si chiama Gina. Gina, benissimo. Guarda, credo che sia proprio il nome di base che viene dato alle proprie automobili. Ci dici che macchina è, Isabella? Ho una Clio e si chiama Gina perché il suo colore è rosso ciliegia, quindi ciliegina Gina. Benissimo, Isabella. Adesso l'imbarazzo sta raggiungendomi a livelli inaspettati e quindi quanti anni hai, Isabella? 33. Hai trovato anche uno straccio di fidanzato a Lugano oppure? Ce l'ho. Ce l'hai? È di Lugano? No, è italiano. Perché ti viene da ridere? Perché in università lo stipendio dell'università per lo svizzero è troppo basso. Ah sì? Cioè tra i 2.000 e i 3.000 è troppo basso per uno svizzero? Sì. Ma quanto costa un affitto a Lugano, scusami? Con 1.000 euro hai una casa. Con 700-800 puoi avere una camera in affitto, come a Milano. Beh, insomma, no, un po' di più, dai. Un pelo di più. Un pelo di più. Però a Milano, fortunatamente, sono pochissime le persone che chiamano ancora Gina la propria automobile. Però, Isabella, io ti ringrazio. Ma Radio 24 si prende Serena a Lugano? Sì, si prende Serena, io l'ascolto via internet. Beh, vorrei vedere, sei ricercatrice digitale, se mi dicevi che cercavi la sintonia adesso era finita. Grazie mille Isabella, buona giornata. Ciao a te. Ciao, grazie. Le altre telefonate le prendiamo dopo, però visto che è arrivato un racconto, ho preso in mano uno di quei racconti che mi sono stati portati a mano al Salone del Libro di Torino. È un racconto che si chiama Libri, me l'ha dato Brevi Manu. Quando dico Brevi Umano mi eccito quasi come un ricercatore universitario di Lugano. Me l'ha dato Brevi Umano Rebecca e racconta questo qui. È il giorno del mio 11° compleanno e sto tornando da scuola con mia sorella. Abitiamo al quarto piano di un piccolo condominio e da 7 anni tornare a casa per me è una sequenza precisa e immutabile di rumori. Il portone d'ingresso con un leggero fischio al cardine superiore. L'ascensore con quei sussulti familiari, ritmati, e infine la porta di casa, con la chiave che gira nella toppa sempre alla stessa velocità, facendo sbattere il portachiavi nel legno. Entriamo, ma la casa questa volta è diversa. La mamma è al telefono, con l'espressione di chi ha passato l'ultima mezz'ora a fissare la porta, nella speranza che tu arrivassi un minuto dopo, anche se un minuto non può mettere a posto proprio nulla. A dire il vero, neppure un anno basterà. Ne serviranno 10, perché ci venga chiesto scusa per quello che sui giornali viene chiamato un errore giudiziario. Intanto quel giorno, quei 10 anni, stanno appena iniziando. E noi siamo lì. Mio babbo possiede tanti libri da fare invidia a una biblioteca civica. E adesso sono tutti per terra. Alcuni aperti, come a volere cercare qualcosa. Altri buttati lì, solo per fingere di averlo fatto. A me che sono una bambina sembrano quasi feriti. Il pavimento di casa al primo sguardo ne appare letteralmente sommerso. A stento si trova un posto da cui passare. Però chi li ha buttati a terra lo ha fatto stando fermo. Quindi adesso a ben guardare sembrano le tessere del domino, un attimo dopo la fine del gioco. Quando ancora è facile intuirne la disposizione iniziale, sembra quasi possibile dare una spinta all'ultima per rimetterle in piedi tutte, a ritroso. Non è così. Il domino ha regole diverse. Pochissimo per distruggere, molto per ricostruire. E se oggi, dopo 19 anni, vuoi scoprire se davvero mi fido di te, chiedimi in prestito un libro. O proponimi di lasciarlo a casa tua quando ho in programma di tornare. Te ne regalerò molti, ma nuovi. I miei stanno sugli scaffali che decido io. Io sono qui, @radio24.it. L'indirizzo è sempre quello e vi chiedo di continuare a mandare i vostri racconti. Il racconto è un racconto di una pagina che racconta meglio di un episodio della vostra vita. Un episodio che in qualche modo dice qualcosa di voi, del vostro passato, del vostro presente e, se magari invece riuscite a immaginarlo, anche del vostro futuro. Tutto questo non va perso, al contrario, noi lo stiamo tenendo molto stretto perché tutto ciò farà parte di un progetto che avrà luogo e vita probabilmente dopo l'estate. Io sono qui, @radio24.it, un racconto di una pagina, la borsa e poi io sono qui. Veicolo, la Poderosa. Una Norton 500 del 39 che cade a pezzi. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e stai qui. Nella foto di oggi siamo in riva al mare, credo, o a un lago. No, forse è un fiume, perché dall'altra parte si intravede qualcosa. Vabbè, comunque è uno specchio d'acqua, direi stagnante, non è un fiume. C'è una riva da una parte e una riva esattamente dall'altra. Dall'altra c'è anche una città. Ci sono degli uccelli che volano, il cielo è leggermente coperto e probabilmente è l'alba. Akrim Abdellah, 23 anni, del Marocco. Il leggero torpore iniziale svanisce negli occhi che osservano nel silenzio della nascita, l'alba del nuovo giorno. Io sono qui. Akrim, un poeta, oserei dire, quindi immagino che, anche se non ce l'ha detto, questo sia un pezzo del Marocco. Esistono fiumi in Marocco? Sicuramente sì. Che domanda sì. È? Certo, lo dice anche Sebastiano. 800240024 349-238-6666. La foto di Akrim è sul sito di Radio 24, come al solito, alla pagina di Io sono qui. Gianfranco mi scrive: tratto come un figlio la mia edizione del Signore degli Anelli. Fu il primo libro che acquistai con i miei soldi. Era il 1977 e avevo 10 anni. Ed il primo libro fantasy che lessi. Da allora, quando mi devo spostare per più di qualche giorno, me lo porto con me. Nelle prime pagine bianche ho scritto le date di ogni rilettura. Sono arrivato a 35. Questo ha riletto 35 volte Il Signore degli Anelli e se lo porta sempre dietro in viaggio. Ricordo che Il Signore degli Anelli è un libro di 800, 1000 pagine, però forse più di 800 pagine, che per chi lo sapesse con esattezza. 349-238-6666. Qualche dettaglio. Allora, il contoterzista è una figura professionale specializzata in lavori agromeccanici. Basti pensare che i lavori in agricoltura vengono svolti dalla semina alla raccolta per il 90% da questi imprenditori. Lucio. Poi mi dicono che, oh, non diciamo stupidaggini, la Multipla venne esposta al MoMA nel 1999. Appunto, mi verrebbe da dire. Mia mamma chiama me, mio fratello, il gatto, ma soprattutto le piante, tra cui il Ficus Benjamin, Ninni. Però Ninni credo che derivi da Ninin, mia nonna mi chiamava Ninin, che sta per piccolino, vale per tutto, insomma. Invece andiamo a Cuneo, andiamo da Nanni. Pronto Nanni? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, bravissimo. Grazie Nanni, anche tu non sei niente male. Niente. Tu che cosa hai dato un nome? Allora, io sono già grandino, 62 anni. Sì. E 44 anni che faccio rappresentante, faccio 100.000 chilometri all'anno. Sì. Ho cambiato 15 macchine, tutte Caterina. Va bene, ma io al mattino scendo, la saluto, le dico ciao, hai dormito bene, la sera quando vado a casa la saluto, dico buonanotte, ci vediamo domani. Com'è la vita, Nanni, al di fuori del lavoro? Cioè tu hai una famiglia? Sì, stai bene, fatto, insomma, Nanni. Sei un professionista serio, uno dei tipici ascoltatori di Radio 24, insomma. Sì, complimenti, perché veramente mi spiace solo una cosa, questo me ne approfitto per dirlo. Aia. Che purtroppo noi qua non vi prendiamo in tutti i posti. Io facendo la langa, che è un posto meraviglioso. La langa, certo. Sì, spesso non riesco a... Nanni, c'è da dire che, guarda, adesso io lo dirò subito ai tecnici e faremo di tutto. Pronto? Per... Sono qua, Nanni, sono qua. Faremo di tutto per... C'è da dire però, niente, chiudiamo Nanni che non ci sente più. C'è da dire però che Cuneo effettivamente non è un posto facile da raggiungere, manco in macchina, a piedi, figuriamoci, per le onde radio. Andiamo ad Ancona da Francesca. Pronto Ancona? Ancona, pronto. Oh. Scusami, Francesca. Francesca, tu... che... Perdonami. Ok, da capo. Pronto Francesca? Pronto, ciao. Ciao. Senti, non sei tu che davi nomi alle cose, ma tuo figlio? Mia figlia quando si è rotta la gamba, sì? Ormai un pezzo fa, ha dato il nome alla sedia a rotelle e l'ha chiamata Lilli Ferrari. E infatti sfrecciava come un ossesso, ha distrutto tutti gli spigoli di casa nuova. Però quanti anni aveva Francesca quando è successo? 12. 12 anni, quindi vale. Grazie mille Francesca, buona giornata. Ah, scusa, una cosa. Dimmi. Il Signore degli Anelli, 1226 pagine senza appendici. 1226 pagine, ricordiamo che quello se lo portava via nel bagaglio. Grazie anche per questo, ciao Francesca. Prego. Andiamo da Simone a Rieti. Pronto Rieti? Questa l'ho fatta apposta, Ciao Matteo. Ciao Simone. Non proprio Rieti, Torricella in Sabina. Che è più vicina a Roma, anzi no, vabbè, è fra Rieti e Roma. È dalle parti di Viola, Orvieto, quella zona lì. Non c'entra niente proprio, non c'entra niente. È che avevi un accento che mi ricordava il suo De Viola. No, ma io sono... ti sembro toscano, me lo dicono in no, molti. No, perché Viola è di Orvieto. Vabbè, ma anche chi se ne frega delle origini di tutta la redazione. Tu che nome hai dato a che cosa? Guarda, io mi ero proposto di non dare nomi ai maiali per ovvi motivi, per non affezionarmi troppo. Certo, perché poi è brutto. E poi alla fine, insomma, ho dato un nome alla mia scrofa. Che è? Ruby. Va bene, ti ringrazio Simone, ciao. Buona giornata, ciao, grazie. Andiamo a Como da Antonino. Pronto Antonino? Sì, ciao Matteo. Ciao, sei in macchina? Sono in macchina, si sente. Che cosa hai dato? A quale cosa hai dato il nome? Ho dato il nome alla mia calcolatrice, Elisabetta. Perché l'hai fatto, Antonino? Perché dopo 5 anni di liceo e 5 anni di ingegneria, adesso comunque lavoro che i numeri mi servono, è diventata la mia regina. Per Antonino, devo dire una cosa. Devo dire che di là dal vetro, quando hai detto che avevi dato il nome alla calcolatrice, mi hanno detto questo sarà un ingegnere. Dopo 10 secondi tu hai detto sono un ingegnere. Allora è bello trovare così identificabile la vostra categoria. Antonino, ti ringrazio molto. Ciao Matteo. Ciao, buona giornata. 349-238-6666. La 600 di mia moglie, perché se hanno un senso i nomi sono più divertenti. La 600 di mia moglie si chiama Rosicchio. Rosicchio, ripeto, perché abbiamo contrattato fino all'ultimo euro per comprarla. Poi mi ricordano che brevi manu è un termine che indica i pagamenti in nero. No, allora, adesso forse, però brevi mano si intende qualsiasi cosa venga data a mano. Poi adesso che si trovino mille modi per definire i pagamenti in nero, perché non si vogliono chiamare pagamenti in nero, perché fa effetto dire in nero, quello è un altro paio di maniche. Vorrei però lasciarvi quest'oggi con un pezzo che sicuramente trovo, vero Bonini? Eccolo qua. Credo di avervene già parlato l'anno scorso, perché quando si parla di oggetti mi eccito come un ricercatore universitario di Lugano. E c'è un sito che io ho frequentato parecchio, anche e soprattutto mentre facevo il programma dello scorso anno, che si chiamava Vendo Tutto. Il sito si chiama significantobject.com ed è una sfida che hanno lanciato degli scrittori americani. Vi dico esattamente di cosa si tratta. Uno scrittore inventa una storia su un oggetto. Investito di un nuovo significato, grazie a questa fiction, l'oggetto deve, secondo la nostra ipotesi, acquistare valore non solo oggettivo ma oggettivo. Il primo volume di storie dei Significant Object va da luglio a novembre del 2009 ed è già stato pubblicato. È stato un esperimento quasi antropologico, la cui ipotesi era questa qua. La narrazione trasforma oggetti significanti in cose dense di un significato. Ogni scrittore è accoppiato ad un oggetto, lui o lei scrivono una storia di fantasia in qualsiasi stile o voce circa l'oggetto e voilà, un insignificante oggetto da soffitta improvvisamente diventa un oggetto importante. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, ringrazio Margherita, Viola, Tiziano, Pietro e Stefano. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?